Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea di temi europei, di giornali europei e non solo. Non possiamo non iniziare, direi, dalla tragedia dell'immigrazione clandestina e di quello che, con questa espressione forse un po' troppo usata, però rende molto bene l'idea, quello che è diventato veramente un cimitero del mare, un cimitero d'acqua, un cimitero a cielo aperto, cioè il Mediterraneo. E cominciamo quindi da un articolo pubblicato dal New York Times, quando vi dicevo appunto che di vicende europee ovviamente non si occupano solo i quotidiani europei, che ha pubblicato un lungo reportage che potete leggere su Internazionale in edicola da ieri, che si intitola «Nel Mediterraneo continua la strage di migranti». Nei naufragi degli ultimi giorni sono morte più di 700 persone partite dalla Libia dirette in Italia. Una tragedia che si ripete da anni e che l'Europa non sa affrontare. Allora, è chiaro che è sempre molto facile giudicare dall'esterno e non credo che la situazione sul confine con il Messico, per esempio, sia molto così piacevole per gli immigrati, anzi ci sono addirittura delle milizie che respingono i migranti che dal Messico vogliono raggiungere gli Stati Uniti. Ciò detto, è chiaro che guardando questi dati e guardando appunto l'impotenza dell'Europa, la conclusione da lontano, quindi da New York, può essere questa. Vi leggo una parte dell'inizio di questo articolo. Tre barche affondate in 3 giorni hanno di nuovo messo l'Europa di fronte agli orrori della crisi dei migranti, mentre i disperati che cercano di raggiungere il continente continuano a morire in mare. Nei naufragi degli ultimi giorni sono morte almeno 700 persone, come ha annunciato l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, in una delle settimane con più vittime della storia recente delle migrazioni del Mediterraneo. E questo era appunto il New York Times, che poi sempre in una parte però di editoriale, perché i giornali anglosassoni si vantano, ma devo dire spesso riescono a separare proprio la cronaca dalle opinioni, e quindi in un editoriale sempre del New York Times si legge: ignorare i profughi non servirà. Il riferimento in questo caso è soprattutto ai vari vertici che ci sono stati, sapete, si susseguono, non si trovano soluzioni, si fanno proclami, si stanziano fondi. Forse l'unico risultato concreto di questi vertici, ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, è stato l'accordo con la Turchia. E allora vi segnalo un bellissimo reportage di Véronique Saunier per Vox Europe, quel sito che cito sempre, che fa un po' questo lavoro simile al nostro di monitoraggio di tutto quello che viene pubblicato su temi europei, però a sua volta produce dei contenuti. In questo caso è un reportage che è pubblicato in partenariato con The New Continent, che è un progetto giornalistico lanciato dal fotografo Legal, e appunto trovate tutto sul sito di Vox Europe. Questo è in particolare un reportage, dicevamo, della Turchia, che parla proprio del fatto che dopo l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia sul ricollocamento dei rifugiati siriani, molti di loro hanno scelto di rimanere in Turchia. C'è proprio un reportage, potremmo dire, vecchio stile, no? Perché dopo quell'accordo del 18 marzo 2016 in realtà ci si mette a un tavolo, ci si chiude in una stanza per siglare questi accordi, e fuori naturalmente succedono, continuano le migrazioni, continuano gli arrivi, e quindi questa giornalista Véronique Saunier è andata fuori per vedere che cosa succede. Ha intervistato molte persone, ve lo consiglio davvero, perché appunto si capisce come anche lo smarrimento di queste persone, di come nonostante diamo anche tutta la buona fede possibile alla Turchia, nonostante i tentativi di spiegare che cosa è lecito e che cosa non è lecito, una volta attraversato il confine è impossibile controllare o spiegare a tutte queste persone che cosa può succedere loro, anche perché si dice sempre che gli immigrati siriani hanno un alto tasso di istruzione, moltissimi di loro conoscono l'inglese, ma non tutti conoscono l'inglese, quindi c'è anche appunto la barriera linguistica. A proposito di migranti, un bizzarro intervista del Dalai Lama alla Frankfurt Allgemeine Zeitung. Perché dico bizzarra? Perché non è la prima volta che mi stupisce in negativo, lo dico molto sinceramente, questo leader spirituale, un annetto fa, forse qualcosa di più, aveva dato una lunghissima intervista al Corriere della Sera dove auspicava, tra le molte cose, che la prossima leader spirituale dopo di lui, fosse quindi dei buddhisti tibetani, fosse una donna bella, perché meglio una donna bella che non bella, questo aveva detto. Adesso ci stupisce di nuovo, dice, almeno stupisce me, che un leader spirituale del buddismo tibetano dica queste cose. Alla Frankfurter Allgemeine Zeitung ha detto: i rifugiati, i migranti arrivati in Europa sono troppi. La Germania non può diventare un paese arabo, ha detto il Dalai Lama. La Germania è la Germania. Oltretutto, tra l'altro, ha ricordato, è giustissimo farlo, che l'Islam, come tutte le religioni selette veramente nei loro testi fondamentali senza pregiudizi, sono fondate sull'amore per il prossimo. Però i gruppi estremisti non rappresentano l'intero Islam. Però, secondo il Dalai Lama, l'ondata di profughi arrivati in Europa pone difficoltà pratiche ma anche morali. L'obiettivo dovrà essere che tornino nei loro paesi e aiutino a ricostruirli. Il famoso aiutiamoli a casa loro, che è un bellissimo slogan, ma poi in realtà ci sono anche, lo dico perché è molto interessante affrontare questi temi oltre la cronaca, cercando veramente di riflettere, ci sono moltissimi economisti, anche africani, che sostengono che gli aiuti dati, come sono stati dati fino ad oggi, aiuti a pioggia per i paesi, in realtà finiscono per il percentuali che variano dal 60 all'80% in corruzione, e che quindi aiutarli a casa loro non è così semplice, ripeto, rischia di essere molto spesso soltanto uno slogan. A proposito di conflitti e magari invece di riconciliazioni, sempre sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, su tanti altri giornali tedeschi ma anche francesi, si è parlato di questo incontro, di questa commemorazione che ha visto protagonisti il presidente francese François Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel il 29 maggio per commemorare appunto una battaglia tremenda, quella di Verdun, dove morirono 300.000 soldati. Era una delle più sanguinose battaglie della Prima Guerra Mondiale, e era stato già Mitterrand a fare gesti di riconciliazione verso la Germania. Adesso che però c'è stato un nuovo anniversario, ancora una volta, insomma, più gesti di riconciliazione ci sono, meglio è. A proposito di Francia, sapete che in Francia si sta la Loi de Travail, che è un po', molti hanno paragonato al nostro Jobs Act, e da lì vedete tra l'altro anche la curiosità che mai in Francia ci si sognerebbe di dare a una legge un nome inglese, mentre noi l'abbiamo chiamato Jobs Act, anche perché a proposito di quelli che vengono chiamati false friend, cioè parole che hanno una traduzione intuitiva dall'inglese all'italiano, in realtà poi significano altro. Act non significa atto, ma appunto significa legge, e da qui appunto Jobs Act, la legge sul lavoro. Ecco, la Loi de Travail, che invece è quella che il presidente Hollande sta cercando di far passare in Francia, in realtà ha portato a tantissime proteste, anche scioperi, lo abbiamo sentito. E allora Le Figaro ha pubblicato un articolo dove spiega che i motivi per i quali, secondo questo quotidiano conservatore, che quindi sostiene questa legge, nonostante sia una legge voluta da un governo sostanzialmente di centrosinistra, però è una legge di riforma del lavoro che va nella direzione giusta, secondo Le Figaro, e in questo articolo ha spiegato i motivi per i quali François Hollande e Manuel Valls, che è il primo ministro, hanno provocato con la loro legge una rivolta sociale che sta bloccando il paese, mentre, udite, in Italia Matteo Renzi ha imposto il suo Jobs Act senza far scendere milioni di italiani in piazza, al di là di qualche grande manifestazione. Matteo Renzi, scrive Le Figaro, è riuscito a giocare tutte le carte a suo favore per far passare la riforma del lavoro. Il capo del governo italiano ha lanciato il Jobs Act all'inizio del mandato, quando era al top della popolarità, tutto il contrario dell'esecutivo francese, che si è lanciato nella battaglia quando è al minimo dei sondaggi, sfiancato da 4 anni al potere. Nel febbraio 2014 il giovane e impetuoso presidente del Consiglio succede a Enrico Letta, ricorda Le Figaro ai suoi lettori, vince alla grande alle europee, ricorderete appunto il Partito Democratico prese più del 40% dei voti, e allora si lancia subito nella riforma del lavoro. È effettivamente un'interpretazione probabilmente giusta, e che anche rende onore a Renzi, perché parte dal presupposto che una riforma così ti rende automaticamente impopolare, che quindi ti conviene farla quando hai un capitale di popolarità, e poi quello che succede nel breve e lungo periodo pazienza, nel senso queste sono le differenze tra, appunto, tra un politico, come diceva qualcuno, e uno statista, cioè uno che guarda al di là dei risultati immediati di cali di impopolarità. Qui chiudiamo, visto che lo seguiamo ormai da tante settimane, ci avviciniamo alla famosa data del 23 giugno, il referendum sulla Brexit, che sulla stampa americana e sulla BBC il leader del partito laburista Jeremy Corbyn, forse anche forte degli ultimi sondaggi che danno i favorevoli alla Brexit superiori a chi invece non la vuole, ha detto che la propaganda che stanno facendo il primo ministro Cameron e molti membri del partito conservatore è insulsa e che la Brexit in realtà per la Gran Bretagna, per il Regno Unito sarebbe una buona soluzione, ma abbiamo sentito che tantissime altre istituzioni non la pensano in questo modo. Vedremo, il 23 giugno si avvicina, vedremo come andrà questo referendum. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.